GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Siccità, verso la firma dello stato d'emergenza, previsto un razionamento dell'acqua anche per gli usi domestici. Femminicidio di Codroipo, ci sono due bambine da tutelare, chiesto il dissequestro della casa in cui è avvenuto il delitto. Raffica di incidenti stradali, due vittime in poche ore, caccia al pirata della strada che ha provocato la caduta mortale di uno scooterista. Covid, sempre alto il tasso di positività, nuovi contagi oltre quota 600. La Faber di Cividale non può essere ceduta ai russi, il veto del governo sull'affare da 150 milioni di euro. Acquacoltura sostenibile, progetto europeo dell'Università di Udine. Nel pomeriggio i risultati. Il Ponte del Diavolo, da sotto in su c'è anche il Natisone in canoa tra le nuove frontiere del turismo. Sport basket, la Gesteco vince a Vigevano, ora potrà giocare in casa la Bella per la promozione in A2. Atletica leggera, la Pordenonese Baofa Mifri verso grande protagonista ai campionati italiani allievi. Sono le 7:19 minuti di lunedì 20 giugno. Buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gerlinzoni. Diamo subito uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo una situazione stabile, cielo sereno, poco nuvoloso sulla regione. Vediamo adesso le temperature che sono state registrate questa mattina alle 6. A Trieste 21 gradi, mare quasi calmo, con temperatura di 24 gradi e 5 decimi. A Pordenone 18 e 5, a Udine 17 gradi, a Gorizia 6. Nell'area montana a Tolmezzo 18, a Tarvisio 16 e 5, a Sappada 12 e 5 e ancora sui monti abbiamo Forni di Sopra 14 gradi, sul Piancavallo 11 e mezzo, in quota sull'Ussaria ci sono 12 gradi, sullo Zoncolan 12 e 5 decimi. Tornando sulla costa, Lignano 23 e 5, a Grado 22, con temperatura del mare 24 gradi e 5 decimi. E per la giornata odierna l'ARPA Friuli Venezia Giulia prevede cielo sereno, poco nuvoloso, con caldo estivo, specie di pomeriggio in pianura, venti a regime di brezza. Dal pomeriggio variabilità sulla zona montana e verso sera saranno possibili locali temporali sulla fascia alpina, in successiva eventuale estensione alla fascia prealpina. Situazione meteo, come avete visto, stabile. Si aggravano le conseguenze della siccità nei prossimi giorni. Il presidente della regione Fedriga firmerà lo stato d'emergenza. Il documento in preparazione all'assessorato all'ambiente interesserà gli usi agricoli, civili e domestici dell'acqua. Si punta a costruire una cornice normativa per il contenimento dell'utilizzo della preziosa risorsa. Quest'anno in regione è piovuto pochissimo, meno della metà rispetto alla media degli ultimi 30 anni. Una dichiarazione di stato d'emergenza per siccità sembra essere tra le ipotesi al vaglio anche della conferenza delle regioni presieduta dallo stesso Fedriga. Intanto ricordiamo che da oggi inizia il razionamento dell'acqua per usi agricoli da parte del consorzio Meduna Cellina. Oltre 7.000 gli utenti interessati dalla misura, che dovrebbe garantire riserve idriche ancora per alcune settimane. Adesso la cronaca. Codroipo, la cittadinanza è unita in uno slancio di solidarietà nei confronti della famiglia colpita dalla tragedia dei giorni scorsi. La priorità è la tutela delle due figlie di Elisabetta Molaro, uccisa dal marito dal quale voleva separarsi, e in questo senso va un'istanza presentata dall'avvocato della parte della vittima. Una richiesta di dissequestro della casa dove si è consumato il delitto è stata presentata dalla legale Carlotta Roiatti, che assiste la madre di Elisabetta Molaro, la vittima del femminicidio di cui è accusato il reo confesso Paolo Castellani. Le bimbe di 5 e 8 anni hanno bisogno delle loro piccole cose come vestitini e giocattoli, spiega Eddie Sanson dell'associazione I Nostri Diritti, che tutela le vittime di reati e ha interessato nella vicenda l'avvocata Roiatti. Le due minori sono sotto la cura della nonna materna, Petronilla, descritta da chi la conosce come una donna forte. Viene aiutata da amici di famiglia e dai servizi sociali del comune. Il principale obiettivo rimane tutelare le due piccole e la loro crescita. È stato detto loro che mamma Elisabetta non c'è più, ma il percorso psicologico è solo all'inizio e sarà lungo. Prima che venga fissata l'autopsia è necessaria la nomina di un amministratore per le bimbe, una figura che ha la facoltà di indicare un proprio consulente per l'esame sul corpo della donna. L'autopsia è dovuta, tra le altre ragioni, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da Castellani nell'interrogatorio e per valutare in sede di giudizio l'eventuale aggravante dell'efferatezza. Intanto a Codroipo è stata avviata una raccolta fondi da parte dei commercianti a sostegno delle due figlie di Elisabetta. Alla messa della domenica il parroco Ivan Bettuzzi ha parlato di una comunità con il cuore pesante per quanto accaduto e ha invitato a non soffermarsi troppo sui dettagli della tragedia. La tentazione di rimanere inchiodati sulla superficie della cronaca e cercare con curiosità ossessiva tutti i dettagli con cui si è consumata una tragedia familiare in una famiglia a noi vicina. A Belluno, intanto, Paolo Castellani rimane rinchiuso nel carcere dopo la convalida dell'arresto decisa dal giudice per le indagini preliminari. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Giornata nera ieri sulle strade della nostra regione, dove si sono verificati due incidenti mortali. Il primo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Ronchi dei Legionari. A perdere la vita Fabio Gallini, 56 anni, che era a bordo della sua moto sulla statale 14 all'incrocio tra via Volontari della Libertà e via San Lorenzo, quando sarebbe stato travolto da un'auto che non si è poi fermata a soccorrerlo. Alcuni testimoni avrebbero descritto la macchina e indicato il numero di targa ai carabinieri ora impegnati nelle ricerche della vettura. Gallini è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Monfalcone, ma è deceduto per le gravi ferite riportate. L'altro incidente mortale è avvenuto verso le 5 del mattino a Tavagnacco. La vittima è il 46enne Andrea Di Benedetto, residente proprio a Tavagnacco. L'uomo si stava immettendo dalla Osovana sulla tangenziale sud in direzione Udine, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, ribaltandosi ripetutamente. Un'auto fuori strada anche ieri pomeriggio a Palazzolo dell'Ostella, è rimasta ferita in modo grave una donna di 47 anni ricoverata all'ospedale di Udine. Ora la situazione della pandemia in regione, i nuovi casi di contagio da coronavirus sono ancora in crescita in Friuli Venezia Giulia, lo conferma il bollettino della regione. I nuovi contagi registrati ieri sono 643, più del doppio rispetto a domenica scorsa. L'incidenza sale a 418 casi per 100.000 abitanti in una settimana e torna così ai livelli della prima decade di maggio. Sono stati analizzati quasi 3.800 tamponi, il tasso di positività resta sopra il 17%. Ancora limitati gli effetti sulla situazione ospedaliera, rimangono 4 i pazienti in terapia intensiva, anche se salgono a 90 con un aumento di 5 unità quelli negli altri reparti Covid, e si sono contati ieri 2 nuovi decessi. I temi dell'economia e del lavoro: la Faber di Cividale non può essere venduta ai russi, lo ha deciso il governo, che ha bloccato la cessione dell'azienda specializzata nella gestione di gas e idrogeno, una decisione presa sia per il settore, quello energetico, particolarmente importante in questo momento, sia per la nazionalità dei compratori. Si chiama Golden Power, letteralmente potere d'oro, lo strumento normativo che permette a un governo di condizionare operazioni finanziarie considerate di interesse nazionale. Una facoltà di cui in regione ora si parla per la cividalese Faber, attiva sia nella progettazione e produzione di bombole e sistemi per lo stoccaggio di gas ad alta pressione, sia nel settore dell'idrogeno. È stata infatti bloccata da Palazzo Chigi la vendita dell'azienda friulana strategica per la transizione ecologica, un'operazione rilevante anche a causa della nazionalità russa della potenziale acquirente, una sussidiaria del gruppo di Stato Rosatom. Circa 150 milioni di euro il valore dell'affare, portato avanti per circa un anno senza troppo rumore dalla società, che nel 2021 ha fatturato 92 milioni a fronte di una crescita del 9%. Cifre in positivo, nonostante la lontananza dal fatturato di 102 milioni del 2019, e che spiegano gli investimenti da oltre 10 milioni compiuti lo scorso anno per il miglioramento produttivo. Denaro necessario al mantenimento di un'attività che si deve misurare a livello mondiale con realtà da fatturati miliardari e quindi nel medio-lungo termine virtualmente più competitive. Freschissima anche la notizia del raggiunto accordo sindacale al contratto integrativo per i 350 dipendenti di Cividale e il centinaio dello stabilimento di Castelfranco Veneto dopo la giornata di astensione dal lavoro. Ora resta da vedere se gli altri potenziali acquirenti alla vendita, cioè il fondo italiano Clessidra della famiglia Pesenti e il fondo francese Tikehau, si rifaranno avanti. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Soluzioni tecnologiche innovative per realizzare la transizione verde del settore agroalimentare. Questa mattina dalle 9.30 un webinar promosso da CEFA per Parco Agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa punta al miglioramento e alla sperimentazione di servizi a supporto della transizione digitale e verde delle piccole e medie imprese del settore. E all'Università di Udine questo pomeriggio alle 14 i partner scientifici e industriali del progetto europeo Adria Aquanet parleranno di acquacoltura sostenibile, presentando alcuni approcci tecnologici testati nell'ambito del progetto e i risultati delle applicazioni pratiche sul campo. Il progetto è finanziato nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia. Proviamo allora a capire, insieme al coordinatore dell'iniziativa Marco Galeotti dell'Università di Udine, di che cosa si tratta. Adria Aquanet, un progetto finanziato dalla prima call Interreg Italia-Croazia con un finanziamento di oltre 3 milioni di euro. Abbiamo tre università partner, quella di Udine che è capofila, di Trieste e di Rijeka, 4 centri di ricerca, 2 italiani e 2 croati, le 2 associazioni di produttori ittiche, quella italiana e quella croata, e 4 allevamenti. Il progetto è un po' la prima iniziativa di cooperazione tecnico-scientifica di questa portata tra i due lati del mare Adriatico, no? E l'obiettivo principale è stato quello di trasferire conoscenze avanzate e nuove tecnologie in tutta la filiera dell'acquacultura. Questo l'abbiamo fatto su 3 assi principali: quello di migliorare la sostenibilità ambientale degli allevamenti, migliorare la salute e il benessere dei pesci attraverso la messa a punto di nuovi vaccini per quelle che possono essere le malattie che possono affliggere gli impianti, per ultimo migliorare la qualità e la salubrità del pesce fresco e trasformato. La pesca sta ovviamente depauperando i mari anche in zone dove ormai la popolazione ittica è molto ridotta. L'acquacoltura, specialmente un'acquacoltura come questa che va sempre di più verso la sostenibilità e la produzione di prodotti di qualità, cerca proprio di togliere questa pressione da queste aree marine. È meglio produrre in modo controllato, in modo certificato, in aree definite che impattano meno sul mare e ridurre, almeno per alcuni anni, questa attività di pesca nelle zone dove si va sempre di più a mettere a rischio le popolazioni marine. Dopo le bandiere blu assegnate alle spiagge e agli approdi nautici dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale, arrivano le bandiere verdi di Legambiente. Il riconoscimento premia ogni anno i soggetti ritenuti meritevoli per i loro comportamenti virtuosi in ambito di ecologia, sostenibilità e rispetto dell'ambiente. L'assegnazione avviene nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente Carovana delle Alpi, dedicata ai territori montani. Questa mattina i vincitori regionali saranno annunciati nella sede udinese dell'Associazione Ambientale. La politica a Trieste, il Consiglio Comunale che si riunirà alle 16 esaminerà le proposte di delibera che riguardano il Museo Revoltella e la Risiera di San Sabba. Devono essere nominati rispettivamente 7 componenti del curatorio e 8 componenti della commissione. A Pordenone la seduta del Consiglio Comunale comincerà alle 17.30. All'ordine del giorno la delibera con cui l'assessora all'urbanistica Amirante propone il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali dell'edificio già sede staccata del liceo artistico Galvani per l'ampliamento degli spazi da destinare alla didattica. L'assessore al commercio Lo Perfido invece presenterà le modifiche allo statuto dell'Associazione Sviluppo e Territorio. Riparte la grande scuola estiva di solidarietà organizzata dalla Caritas di Udine e Caritas Summer 2022, terza edizione. Il campo scuola rivolto ai giovani del territorio tra i 14 e i 19 anni, che fino al prossimo 14 agosto trasforma il capoluogo friulano in un grande laboratorio di solidarietà, crescita umana e cittadinanza attiva. 3 le aree in cui è possibile partecipare: la casetta a colori, ossia l'asilo nido multiculturale gestito da Caritas Udine, la mensa dei poveri e i No Borders Lab, i laboratori senza confini che Caritas offre ai richiedenti asilo inseriti in centri di accoglienza straordinaria. Al via da oggi, fino al 25 giugno, la raccolta farmaci da banco in favore dei rifugiati ucraini e contro la povertà sanitaria, raccolta promossa dal Lions Club in collaborazione con Federpharma. Le farmacie che raccolgono il materiale sono quelle di Amaro, Ampezzo, Artegna, Cavazzo Carnico, Chiusaforte, Gemona, Moggio Udinese, Osoppo, Pontebba, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Ugovizza, Venzone, Verzegnis e Villa Santina. Da oggi e per 4 giorni altrettanti tir carichi di cibo per animali transiteranno attraverso l'autoporto di Fernetti diretti in Ucraina. L'iniziativa è di Agras, azienda italiana del pet food, che recentemente è stata acquisita da una multinazionale statunitense. In tutto saranno spedite nel paese sconvolto dalla guerra 65 tonnellate di cibo per animali. Il conflitto con la Russia ha provocato infatti l'abbandono di migliaia di animali domestici e comunque molte famiglie hanno difficoltà a nutrire i propri. Siamo alla pagina della cultura, va in archivio l'edizione numero 38 del premio Hemingway. Il riconoscimento è andato alla scrittrice Margaret Mazzantini, a Pier Francesco Di Liberto in Arte PIF come testimone del nostro tempo, alla scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo e al fotoartista Mario Pelitti. Quest'ultimo ha lavorato per 15 anni al progetto Iper Venezia, fotografando all'alba la città deserta. Sentiamolo in questa intervista. È una scaramanzia la mia, cioè è una città che non vorrei vedere. Nessuno considera la popolazione, gli abitanti, come patrimonio della città. Ed è un errore, perché senza un tessuto sociale la città non esiste. Premiata anche la scienza, il metodo scientifico che, come ha spiegato la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, ci offre la possibilità di ripensare le antiche certezze e di smentire gli stereotipi. Sapevo che in Italia e nel mondo c'erano studiosi grandiosi che da anni, ancora prima che questo virus calasse nelle nostre vite, si stavano preparando a studiare, a capire, a imparare. Ecco qui dove dobbiamo investire veramente a 360 gradi, sapendo che queste conoscenze poi confluiranno per affrontare un problema, per combattere una situazione. Insomma, l'abbiamo vista, noi abbiamo avuto in un anno un vaccino, mentre noi facevamo le nostre vite si occupavano di quello che sarebbe arrivato. Vignano Sabbiadoro, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Un omaggio a Rainer Werner Fassbinder, a 40 anni dalla scomparsa del geniale regista tedesco, è stato allestito dalla Cappella Underground di Trieste al Cinema Ariston. Si tratta di una rassegna di 5 film tra i più rappresentativi in edizione restaurata e un inedito documentario biografico. Si comincia oggi con proiezioni alle 17 e alle 21 di L'amore più freddo della morte del 1969, film d'esordio del regista. Alle 19 sarà presentato il documentario biografico che sarà replicato il 4 luglio. Fassbinder morì nel 1982 a soli 37 anni, avendo firmato 44 tra film e serie televisive, in gran parte autoprodotti. Le opere di Antonio Lupatelli in arte Tony Wolf sono in mostra al PAF di Pordenone. La mostra ripercorre l'intera carriera artistica di questo amatissimo illustratore per l'infanzia. C'è tutta la magia delle opere di Tony Wolf, il celebre illustratore di libri per bambini, nella mostra Attenti al lupo, allestita al PAF di Pordenone, il Palazzo Arti Fumetto Friuli, all'interno di Villa Galvani, situata nell'omonimo parco cittadino recentemente rinnovato. Il direttore Giulio De Vita. Tony Wolf è un gigante dell'illustrazione per l'infanzia, è un autore che... contrariamente a quanto può far immaginare il suo nome internazionale, era italiano, era di Cremona. In realtà si chiamava Antonio Lupatelli. I suoi fumetti, i suoi libri sono conosciuti in tutto il mondo. Abbiamo al PAF l'onore di ospitare una mostra eccezionale con 100 opere originali provenienti dalla collezione Dami, ed è una mostra che fa gioire il cuore, perché risveglia i bambini che sono celati in ognuno di noi. La mostra affianca l'esposizione internazionale già in corso dedicata al fumettista spagnolo Guarnido, un'occasione dunque per grandi e piccoli per ammirare dal vivo quello che i due autori hanno in comune. La mostra si affianca a quella della mostra già esistente di Juanjo Guarnido, dedicata a Black Sad, anche quella dedicata a dei personaggi colorati e antropomorfi, e quindi andiamo a completare una proposta bestiale per l'estate pordenonese. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono arrivate alcune giorni fa e fanno base alla casa dello studente Zanussi di Pordenone. Sono le 15 curiose 2022, le 15 giovani donne tra i 20 e i 32 anni che provengono da 7 paesi europei, protagoniste dell'edizione speciale dello storico format Curiosi del Territorio, ideato e promosso dall'Istituto Regionale Studi Europei. Tutte e 15 sono coinvolte in un programma ricco di visite guidate. Questa mattina alle 9:30 all'auditorium di Casa Zanussi sono coinvolte in un panel dal titolo L'imprenditoria femminile nel turismo e nello storytelling digitale del Friuli Venezia Giulia. La bellezza del fiume Natisone da scoprire in canoa, un turismo che mette d'accordo natura e cultura con la possibilità di partire da Purgessimo e arrivare grazie a un percorso di 5 km fino al tempietto longobardo di Cividale. L'iniziativa ha debuttato ieri, ora l'obiettivo è allungare il percorso inserendo uno scivolo per canoe dove si serviva il vecchio mulino. Sentiamo Andrea Mocchiutti, organizzatore delle escursioni. È proprio un'idea di far sì che la gente crei la propria vacanza, la propria escursione, la propria avventura con il giusto tempo. Per cui uno prende la canoa, tutte le attrezzature, tutto quello che serve per la sicurezza, alcune informazioni e poi parte senza tempo. Può fare la discesa in un'ora, in due ore, in cinque ore, prendersi tutto il tempo che vuole per godersi il fiume e gestire la giornata proprio come meglio preferisce. E vedo che la gente da questo punto di vista è veramente entusiasta e ha capito bene, perché c'è chi si ferma poi per fare il picnic, altri perché vogliono esplorare grotte, altri perché invece amano la parte artistica, perché arrivando a Borgo Brossana in canoa è veramente stupendo, con queste case che si riflettono nell'acqua, e vedo soprattutto gli stranieri restano veramente affascinati da questo. Diciamo, lo spirito è stato colto proprio di fare un'avventura a misura d'uomo e a misura delle proprie forze ed anche del proprio gruppo. Per cui dall'addio al celibato, anche l'altro giorno ne avevamo uno divertentissimo, al gruppo di amici e alle famiglie che invece vogliono scendere con più calma oppure prendersi gli spazi. Insomma, immersi nella natura, vicinissimi poi alla civiltà, perché chi non conosce il Natisone si renderà conto che quando sei fuori, quando sei diciamo nella piana sulle strade, non ti rendi conto del gioiello che c'è a pochi metri. Questo canyon di 30-40 metri che però al suo interno veramente nasconde delle cose eccezionali. Cividale del Friuli, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Monfalcone sarà inaugurato questa mattina alle 11 il nuovo infopoint multimediale della Rocca. Offrirà ai visitatori la possibilità di navigare a 360 gradi fra la storia della fortezza, quella dei luoghi della Grande Guerra e le attrattività cittadine più importanti. Il nuovo sistema touchscreen si inquadra nel progetto di informatizzazione turistica in forma di realtà aumentata che farà di Monfalcone la prima città nella quale la promozione turistica si svilupperà su tutto il territorio in forma multimediale. Sono le 7:40 minuti, siamo alla pagina dello sport, basket, la Gesteco Cividale vince a Vigevano 70-56 e riporta in parità la serie della finale promozione contro i Lombardi. Ora potrà giocare sul proprio campo la Bella per l'accesso alla Serie A2. Gara 4 sul campo di Vigevano è stata una partita di alti e bassi per la squadra friulana che ha gestito benissimo il primo quarto, chiuso sul 9-14, ancor meglio si è distesa nel secondo periodo arrivando all'intervallo con 15 lunghezze di margine, vantaggio massimo. Nel terzo quarto i padroni di casa hanno tentato il tutto per tutto lasciando alla Gesteco solo 6 punti e portandosi fino al meno 2, ma nel periodo conclusivo la squadra ducale ha ripreso in mano le redine grazie ai canestri di Battistini, ha ripreso il largo fino al successo. Per Battistini 15 punti, ma di grande concretezza anche la prova di Chiera, che ha chiuso con 9 punti e 7 rimbalzi. La gara che vale la stagione ora in programma mercoledì sera a Cividale. E va alla Spagna la prima edizione del trofeo Città di Cividale triangolare femminile, che ha visto ieri sera la partita decisiva. Le iberiche hanno battuto l'Italia 54-46. Entrambe le squadre in precedenza avevano superato la Slovenia. Non siamo molto lontani dalla Spagna, ha commentato il commissario tecnico azzurro Lino Lardo. Questo gruppo rappresenta il presente e il futuro della nazionale. E oggi l'attenzione si sposta a Trieste, dove arrivano gli atleti della nazionale maschile in vista della partita di sabato contro la Slovenia, un'amichevole ma di lusso contro una delle migliori squadre del mondo. Sulla panchina azzurra debutterà il triestino Gianmarco Pozzecco, reduce dalla conquista dello scudetto con Milano da vice di Ettore Messina. Intanto alle 17 viene presentato ufficialmente il nuovo coach della Pallacanestro Trieste, Marco Legovic, cresciuto nella società biancorossa e nell'ultima stagione secondo di Ciani. Atletica leggera, 4 medaglie per gli atleti regionali ai campionati italiani allievi a Milano. Grande protagonista Baoa Fa-Mifri Veso dell'atletica brugnera Friuli Intagli, che ha conquistato 2 ori e 1 argento. La 16enne di origine congolese, nata e cresciuta a Pordenone, ma non ancora cittadina italiana, ha conquistato il titolo nel salto in lungo sfiorando i 6 metri e nel salto triplo con 12 metri e 68 centimetri. Inoltre ha contribuito all'argento anche il Brugnera ottenuto nella staffetta 4x100 alle spalle dell'irraggiungibile Bracco Milano. Del quartetto fanno parte anche Valentina Lucchese, Giada Marchi e Rebecca Rinaldi. Un altro argento è arrivato dal goriziano Andrea Dadalt, secondo nei 110 ostacoli con 14 secondi e 15 sulle spalle del trevigiano Zuccon, che l'ha preceduto di 3 centesimi. Dadalt aveva ottenuto il miglior tempo nelle batterie. Il caldo intenso ha accompagnato la 15ª edizione di Magride con le gare disputate nei magredi pordenonesi. La 30 km è stata vinta dall'ultramaratoneta romano Giorgio Calcaterra in 2 ore 10 minuti e 34 secondi, seguito dal liventino Giovanni Iommi e da Giacomo Bruno della Podisti Cordenons. In campo femminile, successo della marchigiana Elena Fabiani in poco meno di 2 ore e 40 minuti davanti a Lorena Piastra e a Lucrezia Salvi del gruppo Livenza Sacile. Sui 10 chilometri nella gara maschile, Mattia Rizzo di Sportiamo, fermando i cronometri sui 36 minuti e 42, ha preceduto Fabio Stefanutti dell'Atletica Buia e Dario Turchetto dell'Atletica Montereale. Sul versante femminile ha primeggiato Glenda Basei dell'Atletica Brugnera in poco meno di 44 minuti davanti alla cordenonese Irene Palazzi e a Erika Bagatin della Maratonina Udinese. E anche per la International Sky Race Carnia si trattava della 15ª edizione, la massacrante corsa di alta montagna con partenze e arrivo a Paluzza su 26 km e mezzo e un dislivello complessivo di 2200 metri è stata vinta da Rosy Martin della Aldo Moro Paluzza, che in campo femminile ha stabilito il nuovo primato della gara integrale in 3 ore 27 minuti e 47 secondi e da Giuseppe Della Mea, anch'egli della Aldo Moro, nella gara maschile. Si è svolta anche la versione staffetta, che prevedeva un cambio a Timau prima della terribile ascesa sul monte Paularo con 1250 metri di dislivello. La friulana Katia Ere, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo, si è aggiudicata la 4ª tappa del Giro d'Italia Handbike, che si è svolta a Udine su un circuito cittadino con partenza e arrivo in piazza Primo Maggio. Ere ha coperto gli 11 giri in programma in poco meno di 1 ora e 12 minuti alla velocità media di quasi 37 orari. In campo maschile si è aggiudicato la tappa il bergamasco Mirko Testa, la media di oltre 41 km l'ora, 85 gli atleti partecipanti provenienti da Italia, Austria e Slovenia. Tennis tavolo, Matteo Parenzana, atleta paralimpico del CRAS di Sgonico e campione italiano assoluto in classe 6, ha conquistato il podio ai tricolori che si sono svolti a Rimini. A Staranzano, la locale squadra di baseball per ciechi si sta attrezzando per tornare competitiva e partecipare al campionato nazionale. In questi giorni il diamante della cittadina bisiacca ha ospitato atleti provenienti dal centro e nord Italia e da Graz in Austria. Il baseball per ciechi torna a Staranzano dopo un anno di stop con un open meeting di ripartenza per mettere le basi su cui ricostruire una compagine bisiacca ad alto livello. In campo tanti battitori italiani, ma soprattutto la nuova squadra di Graz, che in meno di un anno ha formato un ottimo schieramento. Sentiamo la manager Linda Kanzler. Il fine settimana è stato super, stiamo creando la nostra leva di atleti che hanno bisogno di giocare con intensità e il rapporto di collaborazione sportiva con Staranzano ci permette di migliorare. Nel baseball per ciechi non c'è il lanciatore ed i battitori tengono da soli la pallina che colpiscono. La prima base non è presidiata ma è indicata da un cicalino acustico. Il battitore quindi prosegue verso la seconda e terza base, dove un assistente normodotato segnala il punto d'arrivo battendo 2 palette di legno con le mani. La palla ha dei sonagli che consentono ai difensori o fielders di seguirne la direzione e catturarla, lanciandola poi verso la seconda base. Su Cheng, osservatore della Federazione di Taiwan, è giunto a Staranzano per conoscere la dinamica del gioco che venne creato 30 anni fa dal campione bolognese Alfredo Meli. Nel mio paese cerchiamo di far giocare i non vedenti, ma con altre modalità. Mi sembra che il vostro regolamento di gioco riesca ad essere più coinvolgente, rende meglio lo spirito del baseball. Franco Buttignon, presidente di Staranzano Baseball per Ciechi. L'esperienza che abbiamo già fatto in questi 6 anni appena trascorsi ci ha insegnato che i giocatori che vengono a provare questa disciplina diventano più autonomi nella loro vita quotidiana. Noi stiamo lavorando per ricostruire la squadra dello Staranzano BXC, per cui facciamo ancora una volta un appello agli enti, alle associazioni, a tutte le squadre del Friuli Venezia Giulia per darci una mano e ricostruire questa bellissima storia che stiamo facendo. Staranzano, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Calcio femminile, il Pordenone contenderà sabato allo Spezia lo scudetto Under 19. Le neroverdi hanno ottenuto l'accesso alla finalissima tricolore spugnando 3-0 il campo del Torino, una prestazione maiuscola di squadra con reti di Rosolen, Termentini e Volpatti. Le neroverdi in precedenza avevano vinto il proprio girone nella stagione regolare e nei quarti di finale avevano eliminato il Bologna. Il settore giovanile del Pordenone torna a giocare una finale nazionale dopo il doppio scudetto Under 17 maschile del 2018 e 2019 e la finale Under 16 del 2018. Vela Tommaso Salvi della società velica di Barcole Grignano, primo della categoria juniores e assoluto, Nicolò Santoro della società triestina della vela, primo tra i cadetti, e Nina Cittar dello stesso club, sesta assoluta e prima femmina, hanno vinto la 15ª edizione del trofeo Baron Banfield, organizzata nelle acque di Trieste dallo Yacht Club Adriaco e riservata alla classe Optimist. La gara si è svolta su 3 prove. La vittoria a squadre è andata alla velica di Barcole Grignano. Le 7:49 minuti 20 secondi, siamo alla rassegna stampa. Pronto il decreto per razionare l'acqua in regione, titola il Messaggero Veneto edizione di Udine. In agricoltura limiti già in vigore, ma non esclusi interventi anche sulle altre utenze, riserve ridotte ormai al minimo, situazione critica come nel 2003. Di spalla la cronaca locale con l'addio al titolare del bar San Giorgio di Borgo Grazzano a Udine, Vittorio Rosso, aveva 67 anni. Ed è lutto anche nel mondo del calcio carnico, Federico Lirussi muore a 36 anni, lavorava a San Giorgio di Nogaro e tornava spesso tra le sue montagne, era malato. In taglio basso l'intervista a mister Pasquale Marino, Sottil ha le idee chiare e sa cambiare, dice il tecnico siciliano, ha avuto il neo allenatore bianconero da giocatore a Catania dal 2005 al 2007 e poi lo ha affrontato da collega in panchina. A centropagina sull'edizione di Pordenone una foto di piazza 20 settembre ieri sera, gremita di spettatori per il momento clou del Festival Piano City, l'omaggio a Ennio Morricone. Di spalla anche qui la cronaca dal territorio, cominciano i lavori per rifare l'asfalto nel quartiere Torre e poi la ripartenza di tutte le sagre, ma niente fuochi di artificio alla festa in piazza. Programmi definiti anche a Sant'Agostino e alle Grazie. Infine la manifestazione degli antimilitaristi ieri in corteo fino alla base di Aviano per dire no alla guerra. Anche il Piccolo apre con l'allarme siccità, stato d'emergenza vicino, questo è il titolo di prima pagina, piogge dimezzate, Fedriga pronto a firmare il decreto e all'interno una serie di interviste con viticoltori del Coglio e del Carso sugli effetti di questa nuova crisi. Nella cronaca locale domina la questione Sala Tripkovic. A settembre, scrive il quotidiano triestino, il via alla demolizione. E poi gli altri temi cittadini. L'assessore Rossi rilancia l'idea di una fondazione per il Museo del Mare, mentre sul discusso progetto per la cabinovia si annuncia l'arrivo di Doriana e Massimiliano Fuxas, che giovedì sveleranno l'intervento per la stazione in Porto Vecchio. Sull'edizione di Gorizia e Monfalcone, fotonotizia sull'incidente di Ronchi in cui è morto un 56enne, da Gorizia le forze politiche verso il ballottaggio. Laura Fasiolo parla degli incontri per gli ipotetici apparentamenti che sono stati criticati da Ziberna. E poi un servizio sulla biblioteca Coronini, dove si è da poco conclusa la catalogazione di 21.000 volumi. Sull'inserto di Udine del Gazzettino troviamo in prima pagina anche in questo caso il tema siccità. Per il consorzio Meduna Cellina inizia il razionamento. Di spalla il flop del piano per aiutare i profughi ucraini a trovare un lavoro. A 4 mesi dai primi arrivi i progetti sono ancora fermi al palo, pesa soprattutto la poca conoscenza dell'italiano. Quindi nel capoluogo friulano il via ai lavori per nuove fognature in via Valdasseria Media, l'intervento mira a eliminare i frequenti allagamenti dell'area. Per lo sport segnaliamo l'articolo sull'impresa della Gesteco Cividale che vince gara 4 in trasferta contro Vigevano e riapre così la partita per agguantare la promozione in A2. In taglio alto a Tarvisio l'inaugurazione del Lynx Trail, il sentiero didattico naturalistico dedicato alla lince eurasiatica. Sul dorso di Pordenone troviamo l'avvio di una petizione per chiudere di notte il parco Baden-Powell nel quartiere del Sacro Cuore e poi a Sacile 102.000 euro di multe stradali lo scorso anno, 91.000 euro quelle elevate solo per mancanza di cinture allacciate e guida col telefonino, lo rivela un report del comune. Quindi un appello alla regione per la tutela di Magredi e Risorgive. In basso infine lo sport, impresa sacilese, batte l'OL3 e si prende la Coppa Promozione. C'è il tempo per segnalare ancora alcuni appuntamenti di questa sera. A Pasian di Prato si parlerà dei disturbi del comportamento alimentare. L'incontro è promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune e vede la partecipazione degli psicologi di ASPIC, esperti di gruppi di auto mutuo aiuto, e l'associazione Fenice Friuli Venezia Giulia, che riunisce associazioni di familiari, ex pazienti e professionisti di questo ambito. L'appuntamento è alle 20.30 all'Auditorium Venier. E per la rassegna Pur Lilium Estate 2022, in collaborazione con Orto Teatro e Biblioteca Civica di Porcia, la scrittrice Anna Dalton presenta il suo ultimo romanzo, Le tre figlie, alla Barchessa di Villa Correr Dolfina, Porcia, ore 21. E poi Trieste 1974, il titolo del romanzo di Massimiliano Stefani, che sarà presentato dallo stesso autore alle 18.30 presso lo spazio Hauser in via Frausina, Trieste. È tutto per questa edizione, che è stata realizzata da Lorenzo Gallinzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Vassia Crismancic ed Eugenio Giuffrida, collaborato in redazione Manuel Bussani. Sono le 7.54 e 30 secondi, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali, ci risentiamo poco dopo le 11 per l'edizione Flash e poi alle 12.30 per l'edizione meridiana. Grazie per averci seguito e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.